con Filippo dei Comitati per la Difesa dell'Acqua Pubblica per parlare dell'esperienza della Comunanza Agraria dell'Appennino Gualdese. Ben trovato. Buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Voi siete in presidio permanente, raccontiamo tutta la storia di questa mobilitazione. Esatto, noi siamo in presidio permanente ormai da un mese per combattere una battaglia contro una multinazionale imbottigliatrice dell'acqua qui a Gualdo Tadino, perché la comunanza è un ente gestore, un ente esponenziale di una proprietà collettiva di 500 famiglie che gestiscono anche la valle appunto che stiamo presidiando, che è la Valle della Rocchetta. E a seguito di una frana avvenuta nel 2013 la valle è appunto franata proprio nelle pertinenze, nelle tubazioni dove erano stati eseguiti i lavori dalla multinazionale. Se non che la multinazionale, nonostante gli obblighi di legge che imponevano il ripristino dell'area, ha ritenuto di ripristinare l'area solo a patto di un ulteriore prelievo d'acqua che già era per i cittadini eccessivo, a detta di molti, e da lì sono iniziate le controversie legali più grandi che sono sfociate dopo anni di ricorsi nell'occupazione odierna. Il Tribunale vi ha dato ragione. Sulle 13 cause ad oggi, 12 ci ha dato ragione. La tredicesima, una delle due cause al Consiglio di Stato, ci ha dato torto, che era la causa che riguardava il rinnovo di concessione. Perché? Perché nel 2015 la multinazionale chiese un rinnovo di concessione anticipato di 7 anni per far fronte a questo ripristino dei luoghi che secondo lei era eccessivamente esoso e con la concessione in scadenza di lì a poco, tra virgolette, non sarebbe rientrata nei costi. E quindi chiese questo rinnovo anticipato a cui noi ci opponemmo anche per svariate motivazioni, che non c'era alcun tipo di contratto con i proprietari dell'area e che sostenevano e sostengono tutt'oggi che l'occupazione sia abusiva, che non c'era alcuno studio di bacino ambientale sugli ingentissimi prelievi della multinazionale che all'epoca superavano il 500 milioni di litri all'anno. Nessuno studio di interferenza sul bacino idrico e soprattutto sull'acquedotto pubblico, e quindi da lì, mi ripeto, partirono una serie di ricorsi legali che sono sfociati nell'occupazione odierna, perché sono state rilevate una serie di abusività conclamate per cui il comune ha richiesto la demolizione di alcune delle pertinenze, appunto cabinotti a protezione dei pozzi e tubazioni che sono risultate alla fine abusive. Però lo scontro è grande perché la multinazionale ha sostanzialmente tutta la politica dalla propria e tutte le richieste ambientali, amministrative e giudiziarie dei cittadini non sono mai state ascoltate, quindi si prevede un'altra sanatoria sui pozzi, perché fu già bocciata al Consiglio di Stato una sanatoria sulle opere abusive che però ricadevano sulle proprietà collettive, il vecchio uso civico, quindi già una volta è stata bocciata la sanatoria edilizia, probabilmente si prevede un'altra richiesta nella sanatoria nonostante la sentenza del Consiglio di Stato, che i cittadini hanno preso veramente come la goccia che ha fatto traboccare il vaso e hanno deciso di occupare le terre di fronte ai pozzi. Quali sono le vostre proposte per risolvere la situazione a favore dell'acqua pubblica? La proposta è abbastanza semplice, la politica cerca di venderci come se volessimo far chiudere una ditta o fallire la ditta, noi non vogliamo arrivare a questo, o perlomeno se anche idealmente crediamo tutti in un concetto che l'acqua non dovrebbe essere almeno un bene su cui lucrare, ad oggi non abbiamo mai chiesto né pretendiamo la chiusura della ditta, però abbiamo sempre chiesto uno studio ambientale serio. Tre sono i grandi filoni: uno studio ambientale serio prima della concessione, una parte amministrativa concordata, cioè un contratto con i proprietari, un progetto condiviso per il ripristino dei luoghi insieme ai proprietari e concordato con la cittadinanza, un bando di gara pubblico sulla concessione come chiedono le normative europee. E poi passando alla parte ambientale, lo studio di bacino, appunto, cioè quanto è impattante questa concessione sul bacino idrico, lo studio delle interferenze con l'acquedotto pubblico, mai fatte, quindi noi abbiamo la sorgente principale che alimenta la città, ad oggi non sappiamo i 6 pozzi da cui è circondata privati che interferenza hanno con l'acquedotto pubblico, uno studio di deflusso minimo vitale dell'idrografia, quindi dei fiumi, quanta necessità c'è per i fiumi appunto e l'idrografia di superficie di acqua va quantificato e non è mai stato fatto. Tutte queste richieste non sono mai state accolte né dalla politica né dalla multinazionale, che purtroppo si spalleggiano tra loro a scapito dei cittadini. È una delle cose più brutte a cui si è assistito, è che si mette davanti, come al solito, la tutela del lavoro, degli operai che lavorano nella ditta, e si continua a raccontare che vogliamo fare chiudere una ditta a scapito dei poveri operai, cosa che non è, assolutamente non è questo. Per saperne di più ci lasci tutti i riferimenti web? Volentierissimo, ci abbiamo sia una pagina internet che è appenninogualdese.com, dove è più facile reperire la documentazione, le sentenze, foto, video, mappe, o se no la classica pagina Facebook, basta che cercate Appennino Gualdese e troverete tutte le news. Chi vuole venirci a trovare invece ci troverà in presidio permanente in una tenda della protezione civile a Gualdo Tadino, alle fonti della Rocchetta. La battaglia dei comitati per la difesa dell'acqua pubblica nella comunanza agraria dell'Appennino Gualdese. Un saluto e un ringraziamento a Filippo. A presto! Grazie mille, grazie per l'ospitalità e un saluto a tutti gli ascoltatori. Radio Onda Rossa ha dei costi di gestione di 30.000 euro annui e i consueti strumenti di autofinanziamento non bastano più. Per questo ha avviato una campagna di abbonamenti, il cui obiettivo minimo è di 1.000 abbonamenti, che significa per ognuno di essi 2,50 euro al mese. Tutte le istruzioni le puoi trovare sull'home page del sito internet ondarossa.info. Questa è tutta scena teatro su Radio Onda Rossa, il martedì alle ore 15, trasmissione settimanale dedicata al teatro e agli eventi culturali. I podcast di spettacoli e interviste sono disponibili sul sito internet ondarossa.info alla voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Lo spettacolo La guerra spiegata ai poveri di Ennio Flaiano, regia di Francesco Frangipane, con Toni Fornari, Massimiliano Giulio Benvenuto, Francesco Cutrupi, Vanessa Scalera, Davide D'Antonio, Arcangelo Iannace, Francesco Frangipane. Un giorno, tutti quanti gli animali sottomessi al lavoro decisero di eleggere un presidente che gli guardasse gli interessi loro. C'era la società dei maiali, la società del toro, il circolo del basto e della suma, la lega indipendente degli somari residenti a Roma, e poi la fratellanza dei gatti soriani, dei cani, dei cavalli senza vetturini, la lega fra le vacche, bovini e affini. Tutti piorno parte alla donanza. Un somarello, che per l'ambizione di farsi eleggere si era messo addosso la pelle d'un leone, disse: «Bestia elettore, io sono commosso. La civiltà, la libertà, il progresso. Ecco il vero programma che c'ho io, che è lo stesso del popolo, per cui voterete compatti il nome mio». Defatti fu eletto proprio lui. Il somaro, contento, fece un raio. Solo allora il popolo bestione si accorse dello sbaglio d'aver piato un ciuccio un leone. «Miffaloro, ambroglione, abbuvattaro! Ho piato possesso», fece allora il somaro, «e non ho pianto, né manco si morita d'accidente. Peggio per voi che me ci avete messo. Silenzio e rispettate il presidente». Dato è tratto. Signore e signori, siamo in guerra. Dichiarata questa guerra, adesso non abbiamo che uno scopo: vincerla o perlomeno continuarla. Mentre si va ormai spegnendo nelle strade l'eco delle manifestazioni di gioia degli interventisti e gli studenti ripiegati le bandiere si dirigono verso le più economiche case di tolleranza, a noi non resta che riunirci per discutere i nostri piani. Ah, naturalmente non prima che il generale ministro della difesa vi abbia dato tutte le informazioni del caso. Prego, ministro. Grazie, grazie presidente. Le ostilità, propriamente dette, sono cominciate stamani alle ore 10:25, ma possiamo affermare che il nemico, sdegnando ogni leale condotta, le ha iniziate con un intenso lancio di sassi e di materie fecali verso il nostro presidio alle ore 7:15, quindi 3 ore e 10 minuti prima che noi sparassimo il rituale colpo di fucile. E come si chiama il soldato che ha sparato il primo colpo? Per una gentile tradizione, il primo colpo viene sparato da persona estranea al conflitto. Di solito si sceglie una personalità dell'arte, o della scienza, o uno sportivo, o un'attrice di fama. Devo aggiungere però che il primo colpo viene sparato in aria. E come, chi ha sparato questa volta? La signora! Sì, grazie, signori, grazie, è stato davvero emozionante, grazie. È il caso di dirlo, un conflitto che nasce sotto gentili auspici. Generale, ma ci dica cosa pensa di questa guerra. Ogni generale è un pochino un poeta, e i poeti, si sa, non danno spiegazioni. Dirò che le guerre si sentono, ed è inutile spiegarsene. Io sento profondamente questa guerra, e anche il nostro popolo sente profondamente questa guerra, e non importa se fino a oggi ne ha perdute parecchie, ciò che conta è che non abbia perduto la fiducia nella guerra in sé, perché... Vuole dire forse nel suo spirito di giustizia? La guerra, signori miei, è un giudizio di Dio. Certo, e se noi riusciamo a mantenere vivo nell'individuo il concetto che la guerra è il contrario della pace e che quest'ultima esiste soltanto in contrapposto a quella, non deve esistere, altrimenti non avremmo mai pace, il più è fatto. E il morale dell'esercito? Ah, il morale dell'esercito è altissimo. È partito cantando con i fucili infiorati, con doppia razione di sigarette, e tornerà cantando. E con qualche malattia della pelle, è inevitabile. Beh, Del resto, carissimi signori, l'unica maniera di smuovere i nostri soldati e di prospettargli le guerre dal lato erotico. Sì, ma questo spiega proprio il favore che abbiamo incontrato nelle nostre ultime missioni. Ma con i nuovi sistemi di cura è inutile preoccuparci. Sono giovani e bisogna lasciarli fare. Ma dunque questi giovani non si rendono proprio conto della necessità di questa guerra? A loro modo sì. Est modus in rebus. Chiaro. No, signore, non reputo assolutamente necessario che i miei soldati sappiano perché si fa questa guerra. Se cominciassi a dare spiegazioni me ne chiederebbero sempre di più particolareggiate e arriveremmo al giochetto del perché. La guerra, signori miei, la guerra per molti resterà la più bella esperienza della vita. Ed esclusa una percentuale di intolleranti, il resto della truppa farà il suo dovere. Poi ogni soldato racconterà a casa guerra finita come e quanto il suo capitano gli volesse bene e lo tenesse in considerazione. Ma mi scusi, signor Presidente, a proposito di intolleranti, un giovane ha lasciato una lettera per lei. Che faccio, gliela leggo? Ma certo, ascoltiamo, siamo in democrazia. Piena facoltà, egregio presidente, le scrivo la presente che spero leggerà. La cartolina qui mi dice terra terra di andare a far la guerra quest'altro lunedì. Ma io non sono qui, egregio presidente, per ammazzar la gente più o meno come me. Io non ce l'ho con lei, si è detto per inciso, ma sento che ho deciso e mi riserverò. Ho avuto solo guai da quando sono nato e i figli che ho allevato hanno pianto insieme a me. Mamma e mio papà ormai sono sottoterra e a loro della guerra non gliene fregherà. Quando ero in prigionia qualcuno mi ha rubato mia moglie, il mio passato, la mia più bella età. Domani mi alzerò e chiuderò la porta sulla stagione morta e mi cambierò. Avrò di caletà tra le strade di Spagna, di Francia e di Bretagna e a tutti griderò di non partire più, di non obbedire per andare a morire per non importa chi. Per cui se servirà del sangue ad ogni costo andate a dare il posto se vi divertirà. E dica pure ai suoi se vengono a cercarmi che possono spararmi, io armi. Fatti così non vogliono mai fare la guerra in corso, ma sempre quella che verrà. È bene che si sappia che il presidente è calmo e ha fiducia nel popolo e nell'esercito e che la guerra durerà molto. E quanto, se è lecito? Beh, niente è più deleterio di un conflitto che si risolva rapidamente, niente è più antieconomico dell'incertezza. Con una guerra lunga, invece, signori, ciascuno potrà guardare con una certa tranquillità al proprio futuro. Abbiamo del resto esempi illustri. La guerra dei trent'anni, dei tanchi di successione, abbiamo la guerra di Troia, che durò 10 anni grazie ad una donna. Abbiamo le non mai abbastanza ricordate guerre puniche, che durarono complessivamente, generale, quanto? Quanto? Moltissimo. E abbiamo le prime 4 guerre mondiali, delle quali la terza molto lunga. Scusate se intervengo, io penso che una guerra troppo lunga possa contribuire a minare il già traballante istituto familiare. Un marito che lascia la moglie per andare in guerra fatica poi a ritornarvi. Del resto anche in questo campo abbiamo degli esempi illustri. Ulisse. Certo, certo, ma vede, i nostri mariti vanno volentieri alla guerra proprio per il motivo da lei accennato. Da noi la guerra sostituisce il divorzio. È il caso di dirlo, Sua Eminenza, lei non può pretendere la moglie ubriaca e la botte piena. Abbiamo del resto già approntato un piano per la completa e decisiva ammissione della donna in guerra. Io deploro questo piano. Ma io invece sostengo che bisogna inserire l'elemento femminile nello spazio bellico. Non si annoierà aspettando che la guerra finisca. Senza contare poi che la donna in guerra porta una nuova difficoltà. Marte e Venere di nuovo insieme. È guerra. L'incidente è chiuso. anche in questo caso potremmo dire ormai scella palle. Grazie signori, grazie a tutti, grazie, per essere grazie, benvenuti. Grazie. Ancora. Non si verrà la guerra, ma con Dio terra si verrà la guerra. Aiuterà il soldato che non la farà, ci aiuterà il soldato che la guerra rifiuterà. La guerra è già scoppiata, ma con Dio l'ondera. La guerra è già scoppiata, chi ci salverà? Ci salverà il buon Dio, ma con Dio l'ondera. Ci salverà il buon Dio, ci salverà. Bene, signori, un attimo d'attenzione, grazie. Eccovi, grosso modo, i miei piani. Ah, inutile dirvi che rappresentano anche il pensiero del signor generale. Dunque, in un primo momento noi attaccheremo qui, difendendoci qui e qui. Il nostro nemico dovrà combattere qua e qua inutilmente. Riuscita questa prima manovra, lasceremo che il nostro nemico lanci la sua offensiva qui. Noi lo contrattaccheremo qua e qua vittoriosamente. Conquistate le posizioni chiave, svolgeremo la penetrazione qua e qua. Ah, sempre stato cacciato un nemico qui e qui affinché non distrugga forze. È chiaro? Chiaro. Bene, sì. Per questo primo piano prevedo un 2 anni di guerra, sì. Poi noi nel frattempo prepareremo i piani per gli anni successivi. Ma perché invece di attaccare qui non attacchiamo qui? Ma signora! Ma il nemico è convinto che attaccheremo qui. Noi invece facciamo finta di attaccare qui e attacchiamo qui. Ma se il nemico se l'aspetta, perché attacchiamo? Ma è proprio questa la sorpresa, signora! Signor Presidente, mi scusi, c'è un giovane che vorrebbe essere ricevuto. Ah, cosa vuole? Si rifiuta di andare in guerra, quanto ho capito. Che vorrebbe esporre le sue ragioni. Lo faccio entrare, siamo qui per questo. Sì, sì. Mettiamo via questi piani. Avanti, avanti, giovanotto, niente paura, su. Allora, mi dicono che lei non vuol partire per la guerra. Per le soluzioni di compromesso? No? Parli dunque, ascoltiamo. Io non posso andare alla guerra perché? Non posso dirlo. Non posso dirlo, ma che carino! Ma subì al presidente, ma si deve dire tutto al presidente. Confidenza, giovanotto. Innamorato, eh? No! Ah no? Allora? Presidente, la faccenda è semplice. Non so cosa sia la guerra. Ma lei ha voglia di scherzare, voi che avete sorvegliato i vostri piani, i vigili e tutto il resto. Non so cosa sia la guerra, non lo so. Per favore spiegatela. Va bene, se non si tratta che... Buonasera a tutti, scusate il ritardo. Giunge a Praborne, avevo giunto appunto alcuni quesiti da porre. Caro giovane, deve avere un attimo di pazienza. Guardi, si metta là, sì, sono da lei per un secondo, grazie. Allora, signor ministro, come va la nostra economia? Ottimamente, si può dire che abbiamo persino un eccesso nella superproduzione. Ah, la cosa non mi dispiace affatto, anzi... Bene, signori, ora che ci siamo tutti, vi chiederei un attimo d'attenzione, grazie. La filologia ci dà la chiave di molte verità. Ora dunque io le chiedo, signor ministro, cosa occorre secondo lei a un esercito per avanzare? Un buon generale. Grazie. Non è tutto, ci pensi. Per avanzare? Sì. Per avanzare occorre che il nemico indietreggi. In un certo senso sì, ma principalmente occorre che la truppa abbia le sue brave scarpe. Diciamo infatti mettersi sul piede di guerra, sul piede, non sulle mani. Abbiamo dunque bisogno di scarpe per un esercito di 12 milioni di uomini, durata massima della guerra 15 anni. 12 per 15? 180. Per 2? 360. Abbiamo dunque bisogno di 360 milioni di scarpe, considerato che ogni soldato ne adopera una e rivende l'altro. Siamo noi attrezzati per questo sforzo? Sì. Ogni scarpa avrà poi bisogno di 2 paia di lacci. Potremmo noi garantire 720 milioni di paia di lacci e di scarpe. Non è facile. Ma vedremo. Ogni scarpa poi avrà bisogno di 10 buchi. Potremmo noi garantire 7 miliardi e i 200 milioni di buchi. Bisogna fare un piano. Ma suppongo di no. No, non voglio supposizioni, mi farete un piano su questa faccenda dei buchi e uno, grazie, ora a lei, generale. Ha medaglie a sufficienza? Sì, signor presidente, ad ogni modo, se sua eccellenza vuol rendere onore ai miei umani. No, io parlo dei depositi di medaglie. Abbiamo medaglie a sufficienza per premiare i nostri valorosi soldati? Non preoccupiamoci, li prenderemo secondo le disponibilità e il ritmo della superproduzione. Bene, ora veniamo all'esercito. Dunque abbiamo circa 5.500 generali. Un generale dopo 30 anni di servizio costa allo Stato, è per educazione ricevuta, indennità, stipendi, trasferte varie, glielo dica un po' lei. Più di mezzo miliardo, signor Presidente, le faccio notare che abbiamo generali con oltre 40 anni di servizio. Ma propongo, signor Presidente, di affidare, di dividere i generali in due categorie, quelli che hanno gli occhiali e quelli che non ce l'hanno. Voi sapete, cari colleghi, che non c'è vera strategia senza occhiali. È ormai risaputo che le guerre si vincono a tavolino. Propongo dunque di affidare la condotta della guerra a generali forniti di occhiali e agli altri generali la condotta delle battaglie. Ogni battaglia, in fondo, si sa, è un malinteso. Beh, io non ho nulla in contrario, ora veniamo alla contabilità. Dunque, i miei esperti hanno calcolato che avremo circa 90.000 morti ogni anno, che non sono troppi, in definitiva poi si riducono a circa 250 morti al giorno, cifra che possiamo permetterci ampiamente, visto che poi andrà suddivisa e ripartita in un numero 20 volte maggiore di comune. Sorge piuttosto un grave dubbio, signori. Possiede il nostro ministero l'attrezzatura telegrafica sufficiente per comunicare le notizie alle famiglie dei caduti? Sì, possiamo spedire 1.300 telegrammi al giorno e in caso di offensive o di ritirate faremo dei telegrammi concordati come si usa per le feste pasquali. Sì. C'è dunque un largo margine. Le mie apprensioni erano infondate. Comunque io dovevo preoccuparmi. Sì. Dimostreremo subito che noi facciamo tutto il possibile per venire incontro ai giusti desideri delle famiglie. Da domani desidero che comincino a partire i primi telegrammi. Grazie. Signori, predisponiamo anche un piano per l'invio di falsi annunci. In modo che facendoci poi vivi, militari, dati per morti, ne sortirà un benefico effetto propagandistico, specie nei piccoli comuni. Resta però il problema dei feriti. Vogliamo affrontarlo? Io non chiedo che di essere utilizzato. Ho la massima decisione, cara signora, ma senza preoccuparci. I feriti per la maggior parte non protestano e conservano addirittura della guerra un buon ricordo. Alcuni conservano tra l'altro persino la pallottola che li ha colpiti. La soddisfazione di aver fatto il proprio dovere ripaga tutti del sacrificio compiuto. Noi dobbiamo invece preoccuparci di coloro che dopo 2 o 3 anni di guerra non sono stati feriti e tantomeno sono morti. Costoro sono i più turbolenti, sì, perché affezionati alla loro incolumità, ma sapremo individuarli, comunque non c'è fretta. Lei, ministro, vuol parlare? Io vorrei fare alcune considerazioni sulla guerra. Signori, siamo su una falsa strada. Perché la guerra, così come è stata concepita, è un assurdo che disonora l'ingegno dell'uomo. Io vi confesso che a pensare a quanto va sprecato in una guerra io divento pacifista. È ridicolo! Lasciatemelo dire, è ridicolo! Che il mondo ricorra così spesso alla guerra senza aver pensato come soggiogarne l'energia. Si risolverebbe in pieno il problema che tanto assilla i nostri statisti, ovvero l'alto costo delle guerre. Io voglio porre al signor Presidente e agli onorevoli qui convenuti questo semplice quesito, diciamo. quante nazioni non possono ricorrere alla guerra per mancanza di mezzi? Troppe, signori, troppe. È per questa ragione che voglio parlarvi della mia concezione di guerra autonoma, ovvero sia di guerra semi-perpetua. Oh, straordinario! Seguitate. Non si può dire certo che perdiamo il nostro tempo qui. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il sogno degli antichi fisici era il moto perpetuo. Affinché questo sogno si realizzasse, è sempre mancato ai fisici una forza altrettanto perpetua da assoggettare. Oggi non esito a dire che la soluzione non è fuori di noi, ma in noi. Io in fondo propongo l'uovo di Colombo. Propongo l'uomo. E l'uomo è composto da due entità. Una di queste è l'anima, la più pregevole, incorruttibile, non discuto, come Sua Eminenza qui presente ci insegna, ma non è di questa di cui oggi voglio parlarvi. Perché ammesso che l'anima, una volta distaccatasi dal corpo, ritorni alle regioni da cui era partita, è chiaro che non potremmo utilizzarla. E allora ci resta il corpo. Che cos'è il corpo? È un deposito di vecchi elementi che un vecchio pregiudizio ci impone di considerare, anzi, risum teneatis, di onorare. E come si onora questa energia in potenza, signori? Occultandola, sì, occultandola. E vi sembra giusto? Io affermo che una volta ucciso l'uomo, con tutto il rispetto per il caduto, la morale cede il posto all'economia, la pietà cede il posto alla superproduzione, perché soltanto l'economia ha il diritto di indicarci come utilizzare le nostre sventure, ammesso che un caduto in guerra sia una sventura per la società, noi dobbiamo volgere questa sventura a nostro profitto. Signor Presidente, io le chiedo una cosa sola. Mi dia un milione di cadaveri! Mi scusi, signor Ministro, mi scusi, ma che razza di idee lei ha? A questo modo finiremo per distruggere ogni poesia in una guerra. Lo zelo nel servire la patria le ha fatto dimenticare che il nostro popolo sin dall'età più remota si distinse per le sue pratiche innovatorie. La tradizione è pur sempre la tradizione e anche il sentimento vuole la sua parte. È sentimentale, sentimentale in mezzo, se seppellisca il cuore del soldato. Oppure la mano che impugnò la vindice arma, non faticheremo a trovare un precedente nella nostra mitologia. Ma dove va? Ma venga qui! Ma voi mi dite che il culto dei defunti è peculiare per la nostra società. Bene! Bene! E quale modo migliore di onorare un caduto che quello di renderlo utile? La guerra che si alimenta da sé. Sì. Signori, è la più grande invenzione dopo la guerra dei cent'anni. In pratica abolisce la pace con tutti gli inconvenienti che ne conseguono. Ah, io in linea di massima approvo. Anche perché poi non venite a chiedermi grasso, ferro, vitamine, proteine, lecitina, perché sapete cosa vi risponderò poi io? Bacioni cari! Certo, la sua proposta è in qualche modo sedicente. Senza contare poi che le nostre armate saranno così utilizzate due volte. Oh, volete dire che le porterò al massacro? Siete spronati a fare del vostro meglio, ora che bel Napoleoncino! Silenzio, signori, non voi la tendenza a analizzare i fatti e gli avvenimenti, su! Sembra di stare al caffè! Scusate, signori, ero distratto. Ma parlavate di caduti. Sì, sì. Io vorrei farvi notare che essi vengono accolti tutti senza distinzione nella gloria del Signore quando combattono per una causa giusta, ossia necessaria. E la nostra causa è giusta, secondo lei? Nostra non può che essere giusta. È necessaria. Bene, allora siamo a posto anche da questo lato. En passant, Lasciate che io vi dica che una guerra senza religione disonorerebbe l'umanità. Altro che come pretende la vostra critica storica che guerre per i commerci e per le vie di comunicazione. Assurdia. Non mi direte che l'uomo è così sciocco da battersi per le vie di comunicazione? Le vie del commercio, si sa, sono infinite, quelle del Signore, misteriose. La differenza, vi prego di notarlo, è sostanziale. Giustissimo, anch'io, sì, questo è un punto delicato. Il nostro popolo sa che il Signore è dalla nostra parte, condivide pienamente il punto di vista del governo, ma noi non ripeteremo mai abbastanza che il Dio è con noi. Probabilmente a furia di ripeterlo cominceremo anche lui. Eretici impenitenti, noi diciamo che il Dio è con noi, volendo significare che noi siamo con il Dio, la cosa è diversa. Ma se lasciamo l'iniziativa al nemico... Scusi, ma il Dio non prenderà sul serio il nostro nemico se ci battiamo appunto contro il nostro nemico. Oh, ecco, bisogna dunque affermare fin da ora che il grave fardello impostoci dalla storia viene portato da noi in gloria del Signore, che è per Lui che combattiamo, per stabilire e affermare i Suoi principi. Certo, sì, ma vede, è proprio questo il punto delicato. Ora noi dobbiamo capovolgere l'affermazione, dire che è per noi che Dio combatte, d'altronde io non scopro niente di nuovo. Dopodiché lanceremo un nuovo prestito nazionale. Il popolo associa molto volentieri l'idea della guerra con quella del prestito. Io poi lancerei due nuove tasse, una sulla bellezza, una sull'intelligenza. Non vi nascondo che quest'ultima la pagherò anch'io. Anch'io. Beh, anch'io. Già che parliamo di nuove tasse, prendiamo due piccioni con una fava. Serviamo l'economia, serviamo i buoni costumi. Io sarei per un inasprimento della tassa sui vini e per una nuova tassa sui rapporti sessuali. Dissento fermamente. La nostra politica di questi ultimi anni ha molto influito sul carattere del popolo. Dopo non si ubriaca più e non fa più quella cosa con l'entusiasmo di una volta. Rischiamo poi di allontanare la simpatia popolare da un oggetto di largo consumo, la donna. Anche Sua Eccellenza sarà d'accordo, immagino. Non bisogna renderla troppo preziosa. I giovani sono già così propensi a farne a meno. Ma poi l'alcol, l'eminenza, è necessario per le industrie di guerra. Possiamo, eminenza, estrarre l'alcol dai cereali. Un'idea, sì. E da cosa estrarremo i cereali? Dall'alcol. Siamo un circolo vizioso. Anche la superproduzione ha un limite. Possiamo porre un limite al conflitto quando ci verrà a mancare l'essenziale. Ma è giusto. Signori, il termine di 15 anni ce lo siamo imposti come preventivo. Noi possiamo far cessare il conflitto quando ci pare. Abbiamo le armi segrete. No, signore, sono contrario all'uso di queste armi. Ma questa mi giunge nuova! E perché? Perché sì. Come vedete, cari colleghi, un umanitario è a capo di questa nazione! Ma perché, signor Silvestri, dovete essere lasciato che finisca! Queste armi segrete offrono indubbiamente un vantaggio strategico, ma presentano anche uno svantaggio politico. Venendo infatti esse a eliminare completamente i reduci mutilati perché altamente distruttive, vengono a porre il paese sconfitto sulla soglia di un dopoguerra ideale, senza problemi di politica interna. Ora, noi verremo a dominare le vie di comunicazione soltanto a patto che una certa discordia regni all'interno dei paesi sconfitti. Chiaro? Voi fate bene a occuparvi della guerra, ma lasciate che io mi occupi del dopoguerra. Devo perciò insistere, pane, ossia cereali, ricapitolando, scarpe, telegrammi, guerra semiperpetua, Dio, prestito, nuove tasse, pane. Tasse, pane. Sì, e non parliamo più delle armi segrete, grazie. Le armi segrete sono altamente condannabili. A meno che il loro utilizzo non diventi palese. Senza contare poi che una guerra senza largo impiego di fanteria sarebbe un controsenso. Ma bisognerà pur trovare qualcosa per combattere il nemico con qualche vantaggio. Signori, posso parlare? Prego, signore. Anch'io ho da farvi una proposta. Io dico che bisogna cambiare il nostro modo. Non più odiamo il nemico, ma salviamolo. Venga qualcosa di più concreto. Ci sono. Mettiamo i nostri nemici nella condizione di ammirarci e di invidiarci. Io ho pensato che questo risultato si potrà raggiungere soltanto facendogli intravedere la straordinaria ricchezza e abbondanza di cui gode il nostro paese, poiché non è la forza del nemico che ci avvince, ma la sua prosperità. Ho pensato dunque primo: bombardamenti aerei di genere elementare e di prima necessità. Pretendete sempre fermamente! No, la supermarca! Sempre fermamente! Rilanci dei nostri più pregiati prodotti sulle maggiori città nemiche. Noi possiamo mangiare pasta alimentare, zucchero, sughero, conserve, fazzoletti ricamati, oggetti di precisione. Secondo, lancio di intellettuali. Oh, i nostri maggiori pittori e scultori, nonché scrittori e conferenzieri verranno immediatamente lanciati a mezzo di paracadute sul territorio nemico e potranno così diffondere la nostra arte e la nostra concezione della vita. Noi veniamo così ad avvincere il nemico e a liberarci per tutta la durata della guerra di elementi ottimi in tempo di pace, ma che in tempo di guerra diventano dannosi per il loro spiccato senso di individualismo. Terzo, pensate. Le sue idee sono preziose, signora, sì. Preziose. Ma ecco, vede, io non vorrei che dalla loro attuazione ne venisse, come dire, sì, snaturata l'idea stessa della guerra. Cioè, come diceva Oscar Wilde, finché sarà ritenuta malvagia, la guerra conserverà sempre il suo fascino. Quando sarà ritenuta volgare, cesserà di essere simpatica. Ma io, sono parole di uno scrittore che non aveva preconcetti sulla guerra, e scusa, la guerra dei sessi. Parliamo di Oscar Wilde, signora, non so se mi scusi. Sì, sì, prego, prego, presidente, ma io insisto sulle mie idee. Oh. Sai perché? Perché ora che la guerra acquisti un non so chi di magico. Ministro, immagini lei come rimarrebbero male i nostri nemici vedendosi arrivare tutto quello che ha sentito. Già. Ci procureremo le simpatie dei neutrali, signori, convenitene. Tutti, tutti vorranno copiarci. E vi assicuro, signori, vi assicuro che i popoli neutrali saranno presi dalla vergogna di non saper usare la guerra. Come le contadinelle si vergognano di non saper usare uno spazzolino da dentro. Bravo! Noi oggi abbiamo gettato le basi per la nostra vittoria. Sì, signori, ancora un piccolo sforzo e poi potremo considerarci soddisfatti. Trascorsi i primi tempi sempre difficili, la guerra andrà avanti da sé e ci terrà occupati pochissimo. Certo, però si tratta di incanalarla. Bene. Ora dunque io vi chiedo, signori, perché combattiamo? Beh, ma è stato già detto che combattiamo per il Signore. Avevo la necessità di tornare sulla terra. No, un motivo in più non guasta mai, creda. Io propongo di combattere per la libertà. Mi associo la gente! Io mi associo, signori, c'è un guaio! Che da indiscrezioni trapelate risulta che anche il nostro nemico combatte per la libertà. Guardate questo. Combatte per la libertà. Guarda, vedete. Il nemico di noi combatte per la libertà. Oh, figlio! Il nostro nemico combatte per la nostra libertà. per la nostra libertà. Noi combatteremo per la libertà del nostro nemico. Quando avremo fatto prigioniero il suo esercito, occupato il suo territorio, il nemico potrà godere delle libertà di cui noi godiamo da secoli. Mi sembra persino ovvio. E questa è la soluzione, sì, allora restiamo dunque intesi che combattiamo per la libertà, per il brindisi alla libertà. Bene, in alto i nostri calici. Viva la libertà! Alla libertà! Viva! Viva! Viva la libertà! Lei mi scusi? Io sono quel tale della guerra. Ah, sì, già lei quel tale della guerra che non voleva partire per la guerra senza prima sapere, sì. Ah, per caso ho sentito quanto abbiamo detto? Sì. Beh, allora ora saprà perché dobbiamo combattere. Per la libertà, se non sbaglio. Immagino che ne sia lieto, no? Lo sapevo, ma volevo sentirmelo ripetere. In confidenza io amo la libertà. Vabbè, allora non c'è altro. La storia è la storia della lotta per la libertà. Bene, signori, indicate a questo bravo giovane la strada del fronte, sì, grazie. Però la guerra ancora non me l'avete scritta. Prego. Sì. Bene, bene, giovane, le farò una domanda semplicissima. Lei ha un fratello? Sì. Le dispiacerebbe se uno sconosciuto glielo ammazzasse? No. I soliti interessi di famiglia? Bene, ragazzo, le dispiacerebbe se i nemici invadessero il nostro territorio, la sua casa e violentassero, sì, sua madre, le sue sorelle? Sua nonna. Sì, via, giovanotto, rispondete, vi dispiacerebbe? Signore, i nostri nemici sono notoriamente impotenti. Quindi incompetenti della vostra propaganda. Della mia, della vostra. No, l'impostazione è vostra, noi quando ne parleremo in un momento abbiamo altro da risolvere. La patria, giovanotto, la guerra si fa per difendere la patria, sì, e la patria siamo noi, principalmente poi lei, la sua casa, la sua famiglia, la sua madre, la sua sorella. Va bene, questo punto c'è quanto mi intende, se vuole io partire in un discorso, vuoi che giovanotto! Capirai la santità della guerra quando... Vedendo tornare le lacere bandiere dal fronte alla testa dei loro reggimenti, ti verrà un groppo alla gola e vorrai gridare, ma i singhiozzi te lo impediranno. Capito? Vabbè. Andiamo con ordine, eh? Ragazzo, sfatiamo per una buona volta il pregiudizio che il popolino ha nei confronti della guerra. Vedi, caro mio, oggi come oggi non c'è migliore investimento di capitale. Su, via, figliolo, non ti ostinare. Certe occasioni non capitano più di due o tre volte nella vita di un uomo. È un investimento necessario. Ma tu leggi le statistiche della superproduzione. Ma io odio combattere, è immorale. Ma immorale? Allora è immorale la lotta che fa ogni mattina per prendere il tram, lo stesso titolo, mi scusi. Ora, sua eminenza non vuole che si sappia, ma noi ci battiamo appunto per le vie di comunicazione, morale la lotta, non ci faccio sentire. La lotta è l'unica garanzia che Dio ha di perpetuare un'umanità forte e selezionata. Dio e Darwin mi sentono sul mezzo, ma sul fine sono d'accordo. Sì, ma io mi ostino ugualmente a non capire che cos'è la guerra. Siamo in presenza di un sentimentale anarchico. Fuciliamolo! No, può essere sempre utilizzato nell'amministrazione. No, non è più prudente fucilarlo. Va bene, ma non prima di aver salvato la sua anima. La compagnia era disseminata sulla collina, Un vero fuoco d'inferno batteva l'osservatorio, alzando nuvole di terriccio e di fumo. Non ce la caviamo, disse il tenente sottovoce, poi pentito sorrise. Passami il cognac. Gli passai la borraccia, un sibilo, un urto alla mano. Non mi resi conto lì per lì che cosa fosse successo. Accidenti, porca puttana, fece il tenente. La mano, mi guardai la mano. Un fiore rosso si allargava sulla palma. Ero quasi allegro. Fango e pidocchi. Fango. Pidocchi. Pidocchi e fango. Fango e pidocchi. Pidocchi e fango, fango e pidocchi, pidocchi e fango, fango, pidocchi, pidocchi, fango, fango, pidocchi, pidocchi, fango, fango, pidocchi, pidocchi, fango, fango, pidocchi, pidocchi, fango, fango e pidocchi, pidocchi e fango, fango e pidocchi, pidocchi e fango, pidocchi e fango, fango e pidocchi, fango e pidocchi, fango e pidocchi, fango e pidocchi, fango e pidocchi, sino all'orizzonte. Un soldato cantava. Il capitano entrò nella buca triste, accigliato. Che fai qui? Dormo. Davanti al sonno siamo tutti uguali, no? Sì, anche davanti alla... La vecchia non ci fregherà. Ne ero convinto. Tacque. Si passò una mano sulla fronte. Poi con un gesto brusco mi tese il portafogli. Vieni, è meglio che lo conservi tu. Presi il portafogli senza parlare. Il capitano disse: lei ha paura? No! No! No! Mi baciò la larga mano sul capo e mi disse: dormi, ti sveglierò a tempo. Sdraiamo vicini. Lui fumava, gli occhi rivolti verso il soffitto della buca. A un certo punto chiese: quanti pidocchi ci saranno qui? Un milione. Risposi. Fronte al fiume. Com'era bello quel posto. Sembrava la passeggiata scolastica al momento di tirar fuori la colazione. Noi stavamo tutti là, con la cicca in bocca, aspettando. saltare il muretto, arrivare a quella casa, scacciarne quei porci, nient'altro. Vicino a me un soldato, uno dei nuovi, con la testa grossa, mi guardava con certi occhi. Pensi alla mamma, gli chiesi. Non tengo la mamma, rispose. Mi guardò a lungo, con i suoi occhi umidi di buon lontanato. Ma che mamma è mamma? Già. La casa di fronte è il segnale, non dovevo pensare ad altro. Un gioco. Sì, un gioco anche questo, ma terribile. Terribile come un gioco che deve riuscire alla prima volta. Che facci, Franco, penso. Parliamo di linguaggio del soldato. Giovanotto, in guerra si mangia gratis, si va a letto con le ragazze, mi perdoni, signora, avrai cognac, sigarette, maglie di lana, cartolini in franchigia, pomata mercuriale, assistenza morale e ogni tanto potrai ricevere un pacco del peso non superiore ai 5 kg. No! Fuciliamolo, vi dico, convincerà anche noi! Aspetta un momento, ancora. Giovanotto, cerca di capire bene la situazione, eh? Tutti i giovani della tua età ci fanno guerra. E persino con la macchina fotografica per fissarne i ricordi. Se io ci avessi 20 anni! Ma come puoi mancare di delicatezza a tal punto da rifiutarti al nostro appello? Cioè, ora mi fate una questione di delicatezza. Sì, sì, sì, ne facciamo una questione di delicatezza. Una questione di delicatezza. Di delicatezza. Se ne fate una questione di delicatezza, allora ci andrò. Oh! Ma senza convinzione. È sempre meglio che niente. La guerra è come la birra, la prima volta non piace, ma poi vedrà, non potrà più farne meno. Bene, signori, indicate questo bravo giovane la strada del fronte. Giovane. Molti giovani dell'ultima generazione mancano di ideali, eh? Finiti quei tempi in cui in guerra si andavano persino i poieti. Ma si può sapere che cosa piace oggi ai poeti? Guerra nix, donne nix. Ma signora, lei giudica leggermente. Io ad esempio scrivo versi. Il generale qui pure. Il ministro da giovane ha scritto un poema. Il presidente che ha scritti 3 oggi introvabili. Vede, la politica sublima la poesia. Anzi, io direi che ogni politico è un poeta mancato. Guerra, questa gran divoratrice, si regge con le idee, con sempre nuove trovate. Vabbè, non vi trattengo oltre, finiremo poi fatalmente a parlare di letteratura, è vero? No, pensarci bene, signori miei, abbiamo taciuto a quel simpatico giovanotto che in guerra si rischia di morire. Mi hai fatto male? No, ma in fondo qualcosa dovrà pure imparare da sé. E in questo caso nulla vale quanto l'esperienza personale. Sì, sì, poi non è mica detto che debba morire per forza. Parecchi si salvano. Le statistiche dimostrano che il traffico stradale ne uccide molti di più. Abbiamo ancora 4 milioni di soldati dalla guerra scorsa. La guerra scorsa. Come passa il tempo? I giorni intanto passano rapidamente. E la guerra va avanti ad alterne vicende, previste da entrambi i contendenti. Oh, ma è una guerra che incontro. I critici sono concordi nel considerarla la più importante, soprattutto dal punto di vista tecnico. Però il campionato di calcio non è stato ancora interrotto. Si nota nelle donne una certa tendenza alla liberalità nei rapporti sociali. Esse sanno bene che la festa si fa sempre per loro. 5 anni sono passati e non ce ne siamo nemmeno accorti. Intanto le poste distribuiscono regolarmente i telegrammi di Stato e le tintorie lavorano. Il ministro della superproduzione ha infatti calcolato che... Il nero attirando i raggi solari, contribuisce al risparmio del carburante. Era partito per fare la guerra, per dare il suo aiuto alla sua terra. Gli avevano dato le mostrine e le stelle, il coraggio di vendere cara la pelle. Ma quando gli dissero di andare avanti, aspettava il ritorno, un eroe morto, che ne farà? Se accanto nel letto è rimasta la gloria d'una medaglia alla memoria. La guerra terminerà fra pochi giorni. È durata 15 anni, come previsto. Le notizie ci sono? Sa chi è morto? Quel giovane che si rifiutava di andare in guerra. Ricorda? No. Poi? Siamo agli sgoccioli ormai. Eh sì, ancora 5 giorni e poi l'armistizio. Non voglio andare in vacanza, sai? Ma che si dice della vittoria? Che dice il popolo che vinceremo? I pareri sono discordi. Sì, ma tu che ne pensi? Io? Nulla. Ti ordino di dirmi chi vincerà secondo te la guerra. Ti ordino. Signor Presidente, non posso. Ho anch'io nel mio piccolo una mia teoria sulla guerra. Le guerre si fanno. Quando vincere o perdere non sono cose che mi riguardano. Abbi la delicatezza di volermi rispondere. Signor Presidente, no, prego, non è facile, è una questione di delicatezza. Io non ci cascherei. Io odio la parola vittoria come lei odia l'ipotesi della sconfitta. Io non odio l'ipotesi della sconfitta, nemmeno la temo. Sappi che il popolo ama le vittorie, ma sempre sono soltanto le sconfitte. Poi comunque basterà una canzone per ristabilire l'equilibrio. Tu, piuttosto, odi la logica. Sì, perché se la guerra si fa, qualcuno deve vincerla. A te non costa nulla, piccolo verme responsabile, dire che la vinceremo noi. Tra qualche giorno la storia si incaricherà di noi. La storia. Ma signor Presidente, ma non avevo capito che la storia sono io. Tu? Tu la storia bugiarda, ma cos'sei? Cos'sei la storia, vedi? Sì! Signor Presidente. No, signor Presidente. La storia sono io. Oh, tanto per intenderci. La storia dal punto di vista anche cartaginese. No, io non conosco che una storia e ora ti faccio vedere, prego, Ninì. Le cuffie, grazie. Sì. Chi siamo noi, Ninì? Noi? Sì. Un popolo posto crescemente dalla natura al centro delle vie di comunicazione mondiale. Un popolo santo, fiero, onesto, laborioso, nemico della guerra, ma fortissimo, di antica civiltà, eccetera, eccetera. L'avvenire ci ha dita una meta, quale? Il dominio degli altri popoli che sono per ora disonesti, irreligiosi, golosi, nazionalisti, deboli, politici e deboli! Deboli? Perché sono deboli? Per vari motivi. Dimmi i principali. Perché coltivano le arti decadenti alla pederastia e perché sono dediti ai commerci. Sì. Abbiamo mai perso una guerra? Mai, signor Presidente, cioè ne abbiamo perso alcune. Ma per colpa dell'amico! Per colpa del nemico, un'ultima domanda, chi? Chi? Può portare la durata del giorno a 22, forse anche a 20 ore. Soltanto il nostro popolo, signor Presidente! Per la libera! Per la libera! Grazie, bravi, bravi! No, la vostra Lili è brava, è simpatica, è preparata, io non lo nego, ma ha le carte d'epoca. Io, per esempio, le ho. Messo e non concesso, ti arrovi comunque una funzione che non sai espletare. Faccio del mio meglio. Aspettavo da tempo che la storia non fosse all'altezza degli avvenimenti, ora ne ho la certezza. Fortunatamente avevo preso le mie buone misure. Nini! Almeno su te ha il vantaggio di avere delle belle gambe. Ma non lo hai ancora capito che quel che conta oggi sono gli avvenimenti. Ma quel che conta è altro, per me, signor Presidente. Io non darei un'unghia nel più sporco cuciniere di un reparto per i vostri avvenimenti che il mio lavoro mi costringe a seguire. Lavoro come un altro, inutile lamentarsi. Praticamente si riduce a segnare i nomi dei morti. Lo trovate divertente? Non è meno noioso segnare i nomi dei vivi, è la stessa cosa. E poi anche noi li registriamo, i nomi dei morti, e li onoreremo. Sì, fortunatamente abbiamo più scultori che risparmiati. È un lavoro cane, sempre nomi. Ne ho la testa piena. Voi potete chiedermi il nome del più stupido soldato morto nella più trascurabile scaramuccia, e io ve lo dirò. Io conosco il nome di quelli che sono morti il primo giorno di guerra e di quelli che morirono con la licenza in tasca. Ma non finirei più. Ah, so anche il nome del niente ignoto. Sì, maledetto uscere, tutto questo per gli anni. Tu vedi il sentimento come gli assassini che poi piangono al cinematografo, eh? Buona, maledetto uscere, tu dovresti vergognare. Sì. È l'unica speranza che mi rimane. Ah, ecco. Ecco uno dei tanti nomi che ho dovuto imparare a memoria. Buonasera. Come va, Presidente? Nini, signori? Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Ciao. Sono dolente quanto vi è accaduto, sì. Proprio dolente, sì. Siamo bell'essere avversi, ma certe cose dispiacciono. Se posso esservi utile in qualche modo, pure su di me. Anche su di me. Anche su di me. Anche su di me, figlio. Non mi serve nulla, grazie. Lo dice per confrontarmi maggiormente. Ma le pare, Presidente. Ma tranquilli, signori, non sono venuto qui per la liquidazione di Aletrato. La guerra mi ha insegnato tante cose. Mi ha insegnato, per esempio, ad essere un fantasma discreto. Se non vi dispiace, metta a sedere qui. Prego. Ho tutto il tempo libero. Beh, come va la guerra? Bene, sono di sgoccio, sono ancora 5 giorni, poi armistizio. Spero che gli suonerete a quei porci. Prego, continuate con i vostri discorsi. Stavamo parlando di morti. Speravo che il signor Presidente si rendesse conto che lui è uno dei responsabili. Ma dimmi qualcosa tu. Gli devo dire. Il Presidente è un bravo uomo. Quando vedevo sul giornale la fotografia della sua famiglia riunita, mi venivano le lacrime agli occhi. Signor Presidente, io spero si renda conto di come questa generosità sia più dura di una cosa. Era così sfornito di idee generali, odiava così tanto la guerra, meritava di nascere in Svizzera o sulla Luna. E invece l'ho visto traballare sotto la doppia spinta dell'altro. Delle mitragliatrici. Ma perché? Ma perché ti sei ubriacato? Beh, lasciamo andare. Comunque era un cognac veramente cattivo. Ma questo mi sorprende. Il cognac della nostra sussistenza è considerato ottimo dallo stesso nemico. Scusi, comunque ordinerò un'inchiesta. Sapeva di benzina. Poi quando si beve senza mettere niente nello stomaco sono guai. Ma figuratevi se avevo voglia di mangiare qualcosa. Voi non potete immaginare com'era bello quel posto. Sembrava la passeggiata scolastica, quando è il momento di tirar fuori la colazione. Noi aspettavamo con la cicca in bocca. Adesso che ci penso, molti. Sì, molti se ne vanno con la cicca in bocca. Poi l'ordine di uscire, la corsa fino a quel bar. Bisognava arrivare a quel bar e sloggiare quei porci. gioco anche questo. Forse sarebbe bastato toccare la porta del bar, toccare la réclame del verbo, e avremmo vinto addirittura la guerra. Cioè, almeno io l'avrei vinta. Colpa mia, il regolamento militare parla chiaro, l'ubriachezza non è un attenuante. Io sono morto senza attenuanti. Non ne parliamo più, mi metterete nei pasticci. La luce del sacrificio vi rivelate un eroe modesto e pieno di idee sensate. Che lezione per questa storia. Darò il vostro nome a una scuola di avviamento tecnico, vero signori? Sì, il suo sacrificio va ricompensato. Una scuola di avviamento tecnico? Eppure sono sentimentale. Cioè, sparando si diventa sentimentali. Anzi, se un giorno troverete il mio caro amato cadavere, sulla tomba scriveteci: fu convinto con le buone. Che sonno. Ninna nanna nanna ninna, il pupetto vola zin, fai la nanna cocco bello finché dura sto macello. Fai la ninna che domani vedremo lì sopra, che se scappi non la stima, buoni amici come prima, e riuniti tra di loro senza l'ombra d'un rimorso, ci faranno un bel discorso sulla nanna nanna ninna, ninna nanna ninna. Che caro ragazzo, troveremo il suo nome sulle copertine dei quaderni, quelli con accanto la tavola pitagorica. Si ricorda, presidente, quei quaderni? Sì, sì, uno di quei quaderni che i ragazzi adoperano per la bella copia. Già, quanto tempo è passato, come se ci penso mi commuovo ancora. Bell'età, l'infanzia. Come vedi, noi possiamo contare sulla nostra gioventù, domani e sempre. Domani e sempre. Smettila di rifare il verso e prendi esempio tu dai uomini, non sarà certo la tua memoria che perderà la terra nel suo giro intorno al sole. Io intanto continuo a segnare nomi e ad impararli a memoria. Povero ragazzo, consolati. Molti bambini nascono e nei magazzini militari del paese amico c'è già pronta una pallottola per loro. Addio. Scusa, hai accennato ai morti che verranno? Ci saranno comunque altre guerre. Signor Presidente, siete un bel ipocrita. Perché? Ah sì, tu credi che io mi diverta a farle. Hai detto prima di non sapere se una guerra si vince o si perde. Succede che la cosa ha poca importanza, che qualche giorno infatti io avrò delle belle onoranze nazionali, pure se non aspetto di mettermi, non scudo che qualcuno vorrà impiccarmi, e qualche caso io lascerò fare, si tratterà infatti di un profumo, impiccheranno semmai la sconfitta, non la guerra. Comunque poi sono abbastanza vecchio per non fare una questione personale, anche il mio successore conosce i segreti di questa poltrona. Quando gli scherzi, amico mio, ti consiglio di cambiare mestiere. La tua posizione politica è addirittura infantile, cioè come spiegarti? Ma sì, dopo tutto, le guerre, compresi i nomi che tu vai segnando, come un commesso viaggiatore segna le spese che si farà rimborsare, con la stessa burocratica, abilità, e compreso questo bravo giovane, dopo tutto, le guerre. Sorprende di quello che succede nel mondo. Guarda quello che succede in una goccia d'acqua, per esempio, tra l'erbetta di un praticello, uno di quei praticelli che ci scommetto che riposano lo spirito. La guerra è dappertutto. Quella che noi viviamo forse la migliore. Più economica, senz'altro, ma più decorativa. Tu adesso fai il pacifista. In ritardo, anch'io amo la pace. Bravo, gliel'hai cantata! Sì, bravo! Sì, sì, amo. Figurati dunque cosa può importarmi a me del tuo pronostico. Ci sputo sopra. Non è è questa la guerra che mi interessa, caro mio dilettante, ma la prossima. Se verrà la guerra, ma con non era, se verrà la guerra, ma con non sul mare, sulla terra, ma con non era, sul mare, sulla terra, chi ci salverà? Ci salverà il soldato che non la farà, ci salverà il soldato che la guerra rifiuterà. La guerra è già scoppiata, ma con non era, la guerra è già scoppiata, chi ci aiuterà? Ci aiuterà il buon Dio, Marco Dirondera, ci aiuterà il buon Dio, lui ci salverà. Buon Dio se n'è andato dove non si sa, buon Dio se n'è andato chissà quando tornerà. L'aeroplano vola, Marco Dirondera, l'aeroplano vola, Marco Dirondera. Si getterà la bomba, Marco Dirondera, si getterà la bomba, chi ci salverà? Ci salva l'aviatore che non lo farà, ci salva l'aviatore che la bomba non getterà. La bomba è già caduta, ma con Dirondera, la bomba è già caduta, chi la prenderà? La prenderanno tutti, ma con Dirondera, siamo belli, siamo brutti, ma con Dironda. Sia grandi o sia piccini li distruggerà, sia furbi o sia cretini li sfulminerà. La terra è tutta nostra, ma con Dirondera, ne faremo la gran giostra, ma con Dironda. Abbiamo tutta la terra, ma con Dirondera, giuremo a far la guerra, ma con Dironda. La terra è tutta nostra, ma con Dirondera, ne faremo la gran giostra, ma con Dironda. Abbiamo tutta la terra, ma con Dirondera, giocheremo a far la guerra, ma con Dironda. La terra è tutta nostra, ma con Dirondera, ne faremo la gran giostra, ma con Dironda. Abbiamo tutta la terra, ma con Dirondera, giocheremo a far la guerra, ma con Dironda. Lo spettacolo La guerra spiegata ai poveri di Ennio Flaiano, regia di Francesco Frangipane, con Toni Fornari, Massimiliano Giulio Benvenuto, Francesco Cutrupi, Vanessa Scalera, Davide D'Antonio, Arcangelo Iannace, Francesco Frangipane. Spettacoli, eventi culturali e segnalazioni della settimana. Con Marco Veruggio dell'Associazione Punto Critico, autore della serie podcast Amazzoniani, anche in versione dal vivo il 29 e 30 settembre 2021 a Roma, al Teatro Belli. Marco, ben trovato. Grazie. Ci racconti di questo progetto? Il podcast è il primo atto di un progetto più generale che abbiamo lanciato come Punto Critico, dove i tre pilastri sono raccontare un po' le condizioni di lavoro e di vita dentro Amazon, fare una mappa della presenza di Amazon in Italia e anche una sorta di archivio di tutti i tentativi che i lavoratori hanno fatto di organizzarsi sia in Italia che all'estero. Il podcast nasce dal fatto che noi ci siamo interessati, abbiamo trattato sul nostro sito, ma io anche su altri siti di informazione, le vicende di Amazon, e a dicembre del 2020 ricevo un messaggio da un ex lavoratrice interinale dell'app Amazon di Castel Guglielmo, nel Polesine, che è uno dei più grandi in Italia, e che mi dice perché non parla della nostra storia, del fatto che ci hanno illuso, posto di lavoro a tempo indeterminato, e poi dopo ci hanno caricato, anche se in realtà il lavoro continuava ad esserci. E io gli ho chiesto: ma voi avete del materiale da mandarmi? Ha detto sì, e mi hanno mandato una mole di materiale poderoso, insomma, screenshot delle loro chat, foto, video, e insomma a noi è sembrato che scrivere semplicemente un articoletto, fare la solita intervista anonima, ce ne sono già tantissimo materiale di questo genere, non avrebbe avuto l'impatto che volevamo, per cui abbiamo deciso di provare a assemblare tutte queste voci, queste testimonianze, questi dialoghi che sono molto spontanei, perché poi anche nelle interviste spesso c'è un filtro, sia l'intervistatore sia l'intervistato, e assemblandoli con articoli di giornale e altro materiale, e ne viene fuori, diciamo, un'immersione nella vita quotidiana concreta di questi lavoratori Amazon, con tutti i loro problemi che occupano le 5 puntate, dal fatto che c'è gente che arriva da centinaia di chilometri di distanza e quindi ha bisogno di cercare una casa e non ci sono i collegamenti, per cui si devono organizzare tra di loro per darsi passaggi. C'è anche chi pensa di sfruttare questa situazione. Noi abbiamo raccolto tutto questo. Io l'ho dato, diciamo, la fortuna alla mia compagna Daniela Giordana, è un'attrice, una regista che tu conosci anche bene, e gli ho detto che cosa si può fare. E l'idea è stata quella di chiamare un gruppo di attori bravissimi che hanno registrato su una vera chat di WhatsApp le voci tratte da questo materiale che noi avevamo ricevuto, e ne hanno fatto una drammaturgia con musica un po' nello stile del dramma radiofonico, ma con spontaneità. E questi attori che voglio citare, che sono stati bravissimi, perché sono 6 attori che hanno dovuto impersonare 30-40 lavoratori di Amazon provenienti da tutte le regioni d'Italia, molti anche stranieri, sono Fabrizio Apolloni, Leandro Amato, Ciro Borrelli, Tiziana Zagatella, Riccardo Graziosi, Valentina Martino Chiglia, Lena Sebasti, con Daniela Giordano che ha partecipato e ha fatto soprattutto la regia, e le musiche e il missaggio di Dario Arcidiacono. E il risultato è veramente una full immersion nella vita concreta di questi lavoratori. Quindi abbiamo cercato di non fare una trattazione sociologica, ma di fare una descrizione che in qualche modo fosse facilmente, immediatamente comprensibile a un pubblico più vasto, che non è quello che legge i testi di sociologia o le ricerche accademiche. Diciamo l'argomento di queste 5 parti, che durata hanno poi? Sono 5 puntate, le prime 4 di 10 minuti ciascuna, l'ultima di 20 minuti. Il primo capitolo tratta appunto il problema della ricerca della casa e di mezzi di trasporto e passaggi di qualunque tipo per poter arrivare in questo hub che è, diciamo, una cattedrale nel desert, nella provincia polesana. La seconda parte, che è divisa in 2 puntate, tratta del lavoro, quindi la gente che arriva a lavorare, che vede i colleghi come Amazon, è piena di entusiasmo perché lavora per questo grande gruppo e che cerca di orientarsi, il problema di trovarsi schiacciati tra le esigenze dell'azienda e le agenzie di lavoro interinale. La quarta puntata si intitola Precarietà ed è il momento forse più drammatico, quello in cui questi lavoratori scoprono di essere a rischio, scoprono che Amazon sta facendo le visite mediche ad altri lavoratori, anche se comunque continua ad esserci lavoro, e quindi capiscono che verranno selezionati e non capiscono quali saranno i criteri di selezione, oppure ricevono proposte di rinnovo contrattuale addirittura per 10 giorni, 5 giorni. E l'ultima, che è dedicata ai driver, quindi ai fattorini dell'indotto, e che contiene una interessante discussione, confronto anche acceso tra lavoratori, sullo sciopero che c'è stato il 22 marzo scorso, in cui un lavoratore dice: ma insomma, non ci dobbiamo lamentare, guadagniamo bene, e quasi tutti gli altri lavoratori gli rispondono: ma non è solo un problema di stipendi, è un problema anche di diritti, di sicurezza per noi e per le altre persone, perché se devi fare 130 fermate per turno significa spesso, ad esempio, che non puoi rispettare il codice della strada, e questo mette a rischio sia te che i conducenti che incontri sulla strada. Ci spieghi la fruizione online e poi le 2 date a Roma al Teatro Belli? La fruizione online è molto semplice, basta andare su Spreaker e cercare Amazzoniani, e lì si trovano per il momento il promo e la prima puntata. Ogni giovedì esce un nuovo episodio fino al 14 di ottobre. Per chi ci vuole seguire, trova anche le puntate sulla pagina Facebook Amazzoniani, ed esiste anche un canale Telegram Amazzoniani a cui ci si può iscrivere e riceverà le notifiche delle puntate man mano che escono, e anche altro materiale. Per quanto riguarda il 29 e il 30, è una versione live del podcast che stiamo cercando un po' di capire anche come funzionerà, ma sarà sostanzialmente una rivisitazione ampliata e arricchita delle 5 puntate con gli attori sul palco. La serie podcast Amazzoniani, online e a Roma al Teatro Belli il 29 e 30 settembre 2021. Un saluto e un ringraziamento a Marco Veruggio dell'associazione Punto Critico, che è autore della serie. A presto! Ciao. Grazie mille, allora. Unite Teatro e se altri lavoratori Amazon vorranno mandarci le loro storie, le loro denunce, le loro cronache, noi siamo a disposizione. Con Laura Sicignano, regista dello spettacolo Donne in Guerra, al Teatro Stabile di Catania dal 28 settembre al 29 ottobre 2021. Ben trovata. Buongiorno a tutti, ben trovati. Ce ne parli? Donne in Guerra è un progetto che nasce nel 2008, in realtà, dall'idea di un treno. Un treno che a Genova è molto famoso perché durante la Seconda Guerra Mondiale era il treno che portava nell'entroterra gli sfollati, in quanto Genova era naturalmente obiettivo di bombardamenti come città portuale importante. Questo treno esiste ancora in parte del centro della città e appunto si snoda questa ferrovia anche molto panoramica e suggestiva verso l'entroterra. Il treno poi diventa anche un'immagine del viaggio, un'immagine della vita, l'immagine della fuga, l'immagine dell'incontro che si può fare su un treno. Mi è sempre stato a cuore, in particolar modo il periodo dopo l'8 settembre in cui in Italia c'è la guerra civile, periodo storico anche molto censurato nei libri di scuola, periodo che ci è stato restituito in maniera non chiarissima ma dolorosissimo per il nostro paese. Abbiamo deciso con Alessandra Vannucci, la coautrice del testo, di raccontare questa storia dal punto di vista delle donne. Quindi abbiamo iniziato a raccogliere delle interviste dalle voci di donne che allora erano ancora vive e che avevano vissuto la Seconda Guerra Mondiale, che cosa significava appunto essere donna in quel periodo, che cosa avrebbe condotto successivamente, che posizioni politiche assumevano queste donne, e incontravamo donne straordinarie, donne protagoniste della resistenza, donne che avevano a che fare anche con la lotta politica, la protesta che partiva dalle fabbriche, donne che non avevano preso una chiara posizione, donne che avevano preso una posizione diversa. Quindi abbiamo intrecciato i frammenti di queste storie, perché spesso queste signore erano molto anziane, quindi avevano ricordi molto frammentari, che erano quasi poesie, con linguaggio anche molto interessante, molto icastico, con cui le trasmettevano. Però nella memoria, no, passati 50 anni, 60 anni, questi ricordi apparivano frammentari, come delle schegge, ed erano poi però teatralmente estremamente interessanti. Quindi da questo tessuto abbiamo realizzato 6 ritratti femminili, di donne che non sono la moglie di, la figlia di, la madre di, no, sono donne che si definiscono per se stesse. E questo credo che sia già molto interessante, perché spesso nella drammaturgia classica, ma anche moderna, i personaggi femminili sono funzionali ad un personaggio maschile. E quindi la scrittura ad opera di due donne ha voluto riflettere anche su questo, e quindi creare dei personaggi, anzi delle personagge, che non fossero funzionali. Questo spettacolo è stato fatto più volte, è stato, ha vinto anche numerosi premi, è stato all'estero, e ho deciso di riprenderlo adesso a Catania nel post pandemia, proprio per indicare anche la potenza di resistenza, di resilienza e di ricostruzione che hanno le donne. Naturalmente sono una donna alla direzione di un teatro stabile, cosa non frequente in Italia, lo sappiamo, e quindi questo tema naturalmente apre a varie riflessioni. È interessante anche perché la fruizione dello spettacolo non è frontale, cioè gli spettatori sono immersi nell'azione, sono viaggiatori di questo viaggio appunto in treno, che è un po' un viaggio nella memoria, un viaggio nella storia, è un viaggio nella vita di queste persone che se stesse sono viaggi. Il pubblico entra sul palco, si dispone su due fronti, la scena centrale, poi si sposta in platea dove le poltroncine sono state completamente eliminate e al centro della platea si trova un binario morto e ai lati due gradinate su cui appunto il pubblico può prendere posto, ma lo spettacolo appunto prevede un rapporto molto diretto con lo spettatore, cioè lo spettatore è nella storia e le attrici si rivolgono al pubblico in un rapporto di tu per tu molto intimo, che fa sì che lo spettatore si senta molto coinvolto in qualche modo, si senta veramente testimone, si senta veramente partecipe di questo atto di recupero di una memoria che si sta perdendo e di recupero della storia delle donne. Lo spettacolo è molto forte emotivamente, anche perché c'è un processo di identificazione del pubblico molto forte. Le storie di guerra hanno costellato la nostra infanzia, chi più chi meno, ma sono nel nostro DNA culturale le storie della guerra. Però non vogliamo che vengano dimenticate, travisate, quindi questo è anche il senso di questo spettacolo. E dove il leitmotiv è una canzonetta del tempo che si chiamava Non dimenticare le mie parole, era una canzonetta del trio Lescano, queste donne che ebbero peraltro una storia tormentatissima durante la Seconda Guerra Mondiale, e questa canzonetta che ai tempi era una canzonetta un po' swing, un po' frivola, dove la donna era bimba che non capiva, in questo spettacolo viene usata un po' al contrario, quindi diventa una canzone malinconica e una canzone che invita a non dimenticare, e dove appunto le bimbe non sono scioccherelle, ma sono donne che prendono in mano il proprio destino, fanno delle scelte molto forti, consapevoli anche che potranno pagarle e si occupano della storia. Lo spettacolo Donne in Guerra al Teatro Stabile di Catania dal 28 settembre al 29 ottobre 2021. Un saluto e un ringraziamento alla regista Laura Sicignano. A presto! Grazie, a presto! Con Valentina Noia, direttrice artistica della terza edizione di Liberazioni, Festival delle Arti dentro e fuori, a Torino dal 22 settembre al 15 ottobre 2021. Ben trovata. Grazie. Raccontiamo cos'è questo festival. Liberazioni è un festival delle arti dentro e fuori dal carcere, da oltre 5 anni sviluppa appunto una programmazione di tipo biennale, proprio perché noi abbiamo bisogno all'incirca di un anno per portare avanti tutta una serie di laboratori e workshop all'interno e all'esterno del carcere di Torino, quindi anche coinvolgendo la periferia del quartiere delle Vallette e soprattutto i ragazzi NEET che abitano il quartiere delle Vallette, in una serie di progettualità artistiche e dei laboratori attraverso quali poi nel festival effettivamente viene data restituzione. Come si caratterizza l'edizione 2021? Purtroppo si caratterizza per una difficoltà nell'ultimo anno e mezzo a causa della pandemia, ha riferito di fatto alla possibilità di svolgere attività all'interno delle mura del carcere. Questo perché sono state bloccate di fatto tutte le attività di reinserimento lavorativo, di progettualità culturali per i detenuti, a beneficio dei detenuti. Per cui quello che noi abbiamo fatto è stato fondamentalmente una progettualità molto più di emergenza sociale legata al supporto ai detenuti in uscita, per esempio nel caso in cui si trattava appunto di soggetti fragili e vulnerabili che avevano bisogno di andare agli arresti domiciliari, vista comunque l'ondata pandemica che ha colpito in maniera molto forte il carcere di Torino, e quindi si caratterizza per una parte molto più accentuata legata invece alla restituzione dei due concorsi nazionali, quello di scrittura esclusivamente destinato ai detenuti, proprio quest'anno sul tema di come hanno vissuto la pandemia da dentro, e invece il classico concorso per cortometraggi per filmmaker di tutta Italia sui temi della detenzione. Quanti sono gli eventi, gli appuntamenti? Quest'anno abbiamo una settimana all'incirca di eventi, un paio sono di fatto, soprattutto per quanto riguarda alcuni film lungometraggi, perché il nostro concorso nazionale è rivolto esclusivamente a cortometraggi, invece la sezione diciamo di 3 film di lunghi è in collaborazione con i Job Film Days, è una sezione specifica sul tema lavoro e carcere, ma l'inaugurazione sarà con invece l'anteprima torinese nelle nuove sale della realtà virtuale allestite permanentemente nel Museo del Cinema, quindi nell'Aula del Tempio, con VR Free, un progetto di realtà virtuale, un documentario di realtà virtuale girato da regista Milad Tangshir nel 2019, che ho prodotto insieme all'Associazione Museo Nazionale del Cinema, che promuove anche Liberazioni Festival, all'interno della Casa Circondariale Russo Cotugno, e che porta in maniera immersiva a vivere l'esperienza del carcere in maniera molto molto forte, un film che ha avuto una circuitazione festivaliera a livello mondiale molto importante, vincendo anche dei riconoscimenti notevoli come al Bogotà Short Film Festival nel 2020 o l'Estetica Film Festival, e selezionato anche in anteprima mondiale, ricordiamo, a Venezia 2019 e anche a Sundance 2020. Poi ci sarà domani invece nei laboratori di Via Baltea, con cui collaboriamo assiduamente in Barriera di Milano, Mi incontro invece con un regista di teatro sociale, Mimmo Sorrentino, in occasione della presentazione del suo nuovo libro Che tutto sia bene, con la prefazione di Massimo Recalcati. È un libro che racconta diverse storie di vita emerse dalla raccolta di difficoltà, disagi, dolori di una società italiana molto molto in crisi. Ricordiamo che Mimmo Sorrentino lavora continuativamente nel carcere di Vigevano con le donne detenute dell'alta sicurezza, una delle poche sezioni di alta sicurezza del nostro paese dedicata al femminile, con delle storie veramente molto forti. E queste donne, fra l'altro, l'ultimo anno sono state protagoniste di un film di Bruno Oliviero che si chiama Cattività. L'ingresso in questo caso è libero, mentre nel caso del Beer Free alla Mole sarà con un accesso col classico biglietto della Mole. E poi avremo anche una mostra sempre gratuita a Palazzo Barolo, invece, che racconta di Stefania Bosso, racconta gli spettacoli teatrali della storica Compagnia della Fortezza nella casa di reclusione di Volterra. Compagnia della Fortezza diretta da Armando Punzo, insomma notoria per esperienza pluridecennale di laboratori teatrali e di spettacoli teatrali in carcere. Questa mostra sarà a Palazzo Barolo fino al 14 di ottobre, quindi c'è tempo per visitarla. Naturalmente, per questo contingentamento, per l'inaugurazione prevista sabato 25 settembre alle 3:30 del pomeriggio, è necessaria la prenotazione su Eventbrite, trovandolo a lemurainteriori.eventbrite.it. E poi, da ultimo, lunedì invece ci sarà la restituzione e la premiazione del concorso cinematografico con tutti gli autori in concorso e naturalmente anche i giurati dei due premi principali, cioè la giuria primo premio e la giuria giovani, per cui tutto il pomeriggio al Cinema Massimo sarà occupato da queste proiezioni e visioni e poi dalle premiazioni degli autori e delle autrici, per cui vi invito comunque a seguire il programma maggiormente in dettaglio sulla pagina di amnc.it, la nostra pagina Associazione Museo Nazionale del Cinema, dove è già stato pubblicato per esteso il programma, che poi avrà una propagine estensiva nel mese di ottobre grazie anche al Salone Off e alla restituzione, invece, che non sono ancora date programmate, alla restituzione del concorso di scrittura per, ricordiamo, esclusivamente destinato alle detenute e ai detenuti di tutta Italia che partecipano a questo concorso a premi di racconti dal carcere sul tema della pandemia. Terza edizione di Liberazioni, Festival delle Arti Dentro e Fuori, a Torino dal 22 settembre al 15 ottobre 2021. Saluto e un ringraziamento alla direttrice artistica Valentina Noia. A presto! Grazie, grazie a voi. Con Chiara Casarico della compagnia Il Naufragar Mer Dolce per presentare la 10ª edizione di Agorà, teatro e musica alle radici, al Teatro del Lido di Ostia dal 1 settembre al 22 ottobre 2021. Ben trovata! Ben trovati tutte e tutti e ciao Federico! Per chi non lo conoscesse, Agorà, nonostante le 10 edizioni, ce lo presenti? Agorà è un festival che noi abbiamo cominciato a portare nella periferia est di Roma 10 anni fa e abbiamo iniziato esattamente da San Basilio nei cortili delle case popolari e poi abbiamo unito a San Basilio i cortili di Tufello, poi a un certo punto ci siamo spostati a Pietralata dove avevamo trovato un anfiteatro in cemento molto particolare e molto bello. L'anno scorso siamo arrivati al Teatro Patologico e quest'anno finalmente al Teatro del Lido. Quindi rimaniamo sempre nelle periferie, ma questa volta abbiamo un partner d'eccezione perché il Teatro del Lido è veramente una realtà molto importante proprio della capitale e poi di Ostia chiaramente. Altro partner importante, quest'anno noi per la prima volta riceviamo un riconoscimento molto grande perché siamo entrati nel FUS, il Fondo Unico dello Spettacolo, e quindi abbiamo il Ministero della Cultura con la Direzione Generale dello Spettacolo che ci finanzierà una parte del festival. E a proposito di questo, ecco, una cosa particolare del nostro festival fino a 2 anni fa, noi facevamo sempre ingresso gratuito. Perché crediamo profondamente nel fatto che la cultura sia un bene comune e che debba essere accessibile a tutti. Quest'anno per tantissimi motivi questa cosa non è possibile. Poi anche il Ministero stesso impone di essere un po' autosufficienti e quindi di fare biglietteria, anche perché quello che viene finanziato dal Ministero, se va bene, arriva al 60% del totale, se no potrebbe essere anche meno. E dico potrebbe perché ancora non sappiamo una cifra. Vabbè, ma questi sono dettagli. Ciò nonostante, noi abbiamo deciso comunque di mantenere una parte del festival assolutamente gratuita, quindi su più di 30, e se andiamo a vedere con le repliche arriviamo a 40 eventi, circa la metà sono gratuiti e gli altri hanno dei prezzi assolutamente popolari. Questa è proprio una caratteristica che Agorà cercherà di mantenere sempre, perché appunto crediamo nella cultura come bene primario, e un bene primario deve essere accessibile a tutti quanti. Come saranno distribuiti nel corso del tempo che va dall'inizio di settembre al 22 ottobre? Noi abbiamo suddiviso la settimana in questo modo. Il mercoledì ci saranno degli interventi di teatro urbano che abbiamo chiamato Toc Toc Teatro, il teatro che bussa alla tua porta, che è un progetto che è nato già durante questo secondo lockdown. Quindi i mercoledì i nostri attori si sparpagliano in giro per la città a partire dal primo municipio e diamo un appuntamento a tutti alle 17 al Teatro del Lido. Chiaramente tutto ciò è assolutamente gratuito e lo scopo principale è quello di diffondere ai 420 arte e bellezza e fare pubblicità chiaramente anche al festival. La parte quindi preponderante, quella in cui potrete assistere a tutti gli spettacoli, è quella del venerdì, quindi tutti i venerdì a partire dal 3 settembre fino al 22 ottobre, ad esclusione della prima settimana di ottobre in cui purtroppo abbiamo dovuto mettere la programmazione di sabato. Potrete venire al Teatro del Lido e intorno alla metà del pomeriggio ci sono eventi dedicati principalmente a bambini, ragazzi e famiglie. Poi ci sono eventi in cui coinvolgiamo gli attori del territorio e alle 20:30 e alle 21 ci sono eventi sul palco interno con spettacoli che vengono da tutta Italia, e questa è la grande novità di quest'anno. Abbiamo degli ospiti che vengono da Trieste, degli ospiti che vengono da Cagliari, da Palermo, da Pisa. Il sabato mattina a partire dal 4 settembre faremo un laboratorio gratuito di ritmi, canti e narrazioni che abbiamo chiamato Era Madre, che poi si concluderà con una performance il 22 ottobre alla conclusione di tutto il festival. Quindi la nostra settimana è abbastanza ricca, con una centralità il venerdì. Per non creare troppa confusione, però, forse è meglio dare indicazioni web per la programmazione, per vedere le schede degli spettacoli. Assolutamente sì. Quindi se venite su www.ilnaufragarmedolce.it, e il naufragarmedolce lo scriverete senza apostrofo, senza accento, questo è il nostro sito, e subito potete vedere la programmazione. Comunque diciamo che di base è tutti i venerdì al Teatro del Lido, poi le altre cose bisogna andare a cercarle in giro. Una cosa che vorrei mettere in risalto è anche il fatto che quest'anno per la prima volta abbiamo la presenza di un food truck, come si dice adesso, insomma abbiamo i fritti della friggitoria di Ostia Lido, che noi abbiamo provato di persona, l'abbiamo testata più volte e non ci hanno deluso, e noi li abbiamo chiamati per allietarci. Vorrei invitarvi all'inaugurazione, perché l'inaugurazione si sa è un po' come la prima di uno spettacolo, ci fa tanta emozione, siamo molto contente di poter condividere questo evento con tutti, e infatti abbiamo riempito il primo giorno di eventi eccezionali. Alle 18:30 Lucilla Galeazzi con Stefania Placidi, alle 19 io con Tiziano Scocca e Rita Superbi faremo un assaggio di quello che sarà Era Madre, poi avremo degli incontri anche con la rete interculturale del Municipio 10, e alle 21 Teatro Miela di Trieste con Come diventare italiani, il tutorial, che è uno spettacolo divertentissimo e diciamo che c'è anche un fondo di impegno civile, se vuoi. E altra ultima e non ultima particolarità di questo fine settimana, il 3, 4 e 5 settembre abbiamo una compagnia che viene da Barcellona che si chiama La Inestable. Loro sono una costola del teatro de Los Sentidos di Vargas e fanno quello che definiamo il teatro immersivo, quindi se volete potete prenotare qui, però sono solo 9 spettatori a spettacolo e faranno parecchie repliche, per carità, però insomma i posti sono iper limitati perché si entra 3 alla volta. Avete tutte le notizie sul nostro sito, sulla nostra pagina Facebook, iscrivetevi alla nostra newsletter così almeno riceverete tutte le comunicazioni e veniteci a trovare. decima edizione di Agorà, Teatro e Musica alle Radici, al Teatro del Lido di Ostia, dal 1 settembre al 22 ottobre 2021. Un saluto e un ringraziamento a Chiara Casarico della compagnia Il Naufragar Mer Dolce. Un in bocca al lupo e a presto! Grazie ed evviva il lupo! Ciao! Siamo all'agenda della settimana con Simone Nebbia di Teatro e Critica. Ciao Simone, dici. Ciao a tutti. Allora, questa stagione riparte sempre a Roma con grandi nomi, perché insomma questi sono i mesi di Roma Europa Festival. Ancora non inizia a tutti gli effetti la stagione del Teatro di Roma, ma Roma Europa e altre cose leggermente più piccole, insomma, animano la città teatrale, anche se comunque bisogna sempre ricordare che ogni anno Roma perde un pezzetto. Sono tanti anni che aspettiamo la riapertura, ma non ci crediamo più, di una sala storica come il Teatro Valle. È un anno che aspettiamo di sapere che fine farà il Teatro Eliseo, che a tutti gli effetti al momento è chiuso. Noi abbiamo anche chiesto informazioni alla direzione del teatro, ma non hanno ancora diramato nessuna comunicazione ufficiale. Ebbene, noi ci andiamo a vedere però che cosa c'è a teatro e non ci occupiamo di ciò che non c'è. Ha già debuttato il 24 settembre, ma è stata in scena fino al 10 ottobre, Peng, con la regia di Giacomo Bisordi e il testo di Marius von Meyenburg, un approccio, quello del vascello, che apre la stagione all'insegna della nuova drammaturgia. E questa stagione appunto si apre con questa commedia scritta nel 2017 per la Schauspielbühne di Berlino all'indomani delle elezioni di Donald Trump negli Stati Uniti d'America. Il teatro dovrebbe essere un luogo in cui non sentirsi al sicuro. Questo è il claim, in qualche modo, lo slogan che apre la visione dello spettacolo. Giacomo Bisordi, 24 settembre, già in scena da un po', quindi fino al 10 di ottobre, sarà in scena fino al 3 ottobre. Al Quirino, Una giornata qualunque del danzatore Gregorio Samsa, con la regia e drammaturgia di Eugenio Barba, Lorenzo Gleiesis e Giulia Barley, quindi un modo di vedere attraverso il movimento, attraverso la danza, il capolavoro delle Metamorfosi di Franz Kafka, appunto il personaggio di Gregorio Samsa tradotto in una forma diversa, quindi molto interessante, che è legato, diciamo, un po' alla letteratura. C'è anche i Quartieri dell'Arte questa settimana, fino al 30 settembre, per vedere la Maria Stuarda, 1:40 ore per l'Afghanistan, a Celleno, provincia di Viterbo, Piazza Enrico Castellani, un progetto performativo di autori vari sul concept di Gian Maria Cervo e Laura Lucibello. Quindi questo andremo a vedere per Quartieri dell'Arte questa settimana. All'Altrove, Teatro Studio, 1-3 ottobre, Mumble Mumble, ovvero Confessione di un orfano d'arte. Emanuele Salce e Andrea Pergolari scrivono questo testo, la regia di Timothy John. In scena ci saranno Emanuele Salce e Paolo Giommarelli, che andranno a evidenziare in tre tempi questo racconto, e narrando la vicenda di due funerali e mezzo. Andiamo a vedere poi in scena appunto quale sarà precisamente questo mezzo. 1-3 ottobre, Altrove, Teatro Studio, via Giorgio Scalia 53, perché appunto non lo conoscesse, per questo spettacolo di Emanuele Salce. Al Teatro Le Maschere invece, da questa sera 28 settembre fino al 3 ottobre, lo spettacolo Bobby and Emily di Emily Jenkins, il testo che vede protagonisti Margherita Barricchi e Mauro Lamantia, con la regia di Silvio Peroni. La produzione è quella di Cora Teatro. Silvio Peroni è un regista specializzato nella drammaturgia anglofona. Siamo in una piccola cittadina di provincia, banale come tante altre. Bobby e Emily sono due personaggi fuori dal comune, marginati, complicati, sensibili. Sembrano deboli, ma non lo sono. A modo loro reagiscono ai soprusi e alle sfide che la vita gli pone avanti. Questo spettacolo vinse nel 2019 di Scotland Fringe First Awards, e quindi viene proposto in una forma della versione italiana, appunto, la regia di Silvio Peroni, Teatro Le Maschere, da stasera 28 settembre fino al 3 di ottobre. Parte la stagione del Teatro Palladium, parte per il momento senza teatro, quindi ne parleremo prossimamente. Al Teatro di Roma andremo a vedere, al Teatro India, ma stasera fino al 2 ottobre, 28 settembre 2 ottobre, Enzo Muscato, che interpreta, scrive e dirige il suo compleanno, questo spettacolo dedicato alla memoria di Annibale Rucello, scomparso nel 1986, a soli 30 anni, testo scritto appena dopo e messo in scena per la prima volta nel 92. Enzo Muscato festeggia in assenza questo compleanno in Napoli, Babilonia, in cui le lingue si mescolano, così come i temi e i riferimenti culturali. Questo è l'immaginario che Enzo Moscato porta in scena per compleanno dedicato al Nimbo delle Uccelle, 8 settembre 2 ottobre, Teatro India. Per ciò che riguarda invece, per vedere il teatro argentino, ci sarà una produzione Teatro di Roma che insieme a Roma Europa Festival Grandi Pianure presenta The Cold Concert per la visione di Trajan Harrell con la musica di Keith Jarrett. Appunto, il Cold Concert è nato da una sua improvvisazione, ma appunto c'è una versione coreografata. Ci sarà anche musica di Johnny Mitchell e la coreografia del grande danzatore e coreografo americano, appunto Trajan Harrell, che cerca di interpretare una coreografia a partire dal capolavoro di Keith Jarrett, registrazione improvvisata, solista, la più famosa Maria Rizzata in fondo, che è diventata poi un concerto a tutti gli effetti. È stata ideata durante la pandemia come risposta alle regole del distanziamento fisico sul palcoscenico. Questo è molto interessante vederlo oggi, proprio quando sono state pubblicate le possibilità nuove per il teatro con il nuovo contingentamento, insomma, da andare a vedere sul sito del Ministero, insomma, le nuove disposizioni per vedere teatro quest'anno. Mentre invece per Roma Europa Festival questa è la settimana di Anni Luce. Anni Luce è l'apertura sulla nuova creazione italiana. Andiamo quindi a vedere 28 e 29 questa sera e domani per il testo Notte Bianca di Tatiana Motta con la regia di Camilla Brison, premio Riccione per il teatro 2019, è dedicato al tema del viaggio, inteso come esperienza di crescita umana e personale contrapposta a quella del turismo. Con la drammaturgia di Tatiana Motta, appunto, cerca di mettere insieme il turismo di massa in relazione, contro tendenza, rispetto ai flussi migratori, quindi due modi diversi di vedere il mondo, antitetici direi. Siamo in raison qua, 28-29 settembre, per il Secteur Inverso, prima nazionale per questo lavoro sviluppato a partire da uno studio presentato durante la prima edizione di Powered by Rap, che va a mettere in luce un dialogo tra due identità in confronto con la natura e la crisi ambientale che preoccupa un'intera generazione. Quindi se siete animati dall'interesse verso la prossima possibile catastrofe del mondo in cui stiamo vivendo, da andare assolutamente a vedere questo collettivo di artiste donne, Chiara Boitani, Mathilde Chadot e Clément Perrin, che appunto si conoscono all'università Paris-8 e dalle stesse questioni politiche e artistiche decidono di collaborare su diversi progetti. Ancora andremo a vedere Christian Di Furia, questa volta però giovedì 30 alle ore 19 con Amore Storto, che ha vinto il premio Istrio Scritture di Scena, ed il racconto di un affetto distorto, un amore asimmetrico, zoppicante, storia di una dipendenza, Amore Storto tra ispirazione dal rapporto tra Cesare Pavese e Bianca Garufi. Mentre ultimo dei lavori di cui parliamo, l'ultimo dei lavori di Roma Europa Festival, di Anni Luce per Roma Europa Festival, è sempre giovedì 30 settembre, venerdì 1 ottobre, come Amore Storto, per Anna di Tommaso Fermariello, spettacolo che appunto identifica nel nome femminile questo personaggio di cui si parla. Anna è tornata a casa, Anna, quella che a 16 anni ha massacrato la madre e la sorella con un coltello da cucina. Anna è stata perdonata dal padre, nei 15 anni di carcere lui è sempre stato accanto e ora è pronto ad aspettarla a casa. Quindi una storia drammatica, una tragedia macabra e poi giudiziaria. 15 anni di carcere, Anna torna a casa, andiamo a scoprire in che modo e con quali sentimenti. Al Mattatoio, come tutti gli altri spettacoli di Anni Luce per Roma Europa Festival, di Tommaso Fermariello, Anna, 30 settembre 1 ottobre. E stavolta è tutto. Questa è tutta Scena Teatro su Radio Onda Rossa, il martedì alle ore 15, trasmissione settimanale dedicata al teatro e agli eventi culturali. I podcast di spettacoli e interviste sono disponibili sul sito internet ondarossa.info alla voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.